Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. È andata che ad Ancona, mentre i ragazzi erano dentro a mangiare, dentro l'autogrill, si è accorto di un piede che spuntava da sotto il pullman. Tutto è cominciato così, con un piede che spunta da sotto un pullman. E quella che dovrebbe essere solo una gita scolastica si trasforma nella fine di un incubo per due giovanissimi clandestini e in una straordinaria lezione di vita per alcuni studenti. Ma cominciamo dall'inizio, perché questa storia vogliamo raccontarvela per bene. Un gruppo di ragazzi dell'Istituto Superiore di Chieri, in provincia di Torino, va in gita in Grecia. Di ritorno, a Patrasso, il primo shock per insegnanti e ragazzi. Mentre sul pullman, nella migliore delle tradizioni, c'è chi si bacia sui sedili in fondo, chi ascolta la musica con l'iPod, chi mangia un panino, un gruppo di disperati li circonda tentando di salire a bordo e passare il confine. Gli autisti riescono a tenerli alla larga e sembra finire tutto lì. Tutti ricominciano a baciarsi, si rinfilano gli auricolari e ricominciano a mangiarsi un panino. Poi però, una volta in Italia, al primo stop all'autogrill, la scoperta. Un ragazzo è riuscito ad incastrarsi sotto uno degli autobus e ad entrare nel nostro paese. I ragazzi sono dentro a comprarsi schifezze o a fare la pipì e neanche se ne accorgono. A Chiari però, arrivati finalmente a casa, spunta una scarpa da sotto il pullman. Un secondo ragazzo è riuscito a nascondersi a bordo. Si chiama Ibrahim, 16 anni, viene dall'Afghanistan. Ha con sé una bottiglietta d'acqua, un telefonino, qualche banconota. Nonostante le 24 ore in quella posizione assurda, sta bene ed è contento di essere arrivato, dice, nella città della Juventus. Poi se ne va, senza che nessuno possa trattenerlo. Tanto che il preside ora spera di rintracciarlo e ospitarlo nella sua scuola. Ha la stessa età dei suoi studenti e non riesce ad immaginarselo da solo, per la strada, dopo un viaggio così. Sentiamolo il preside Angelantonio Manganelli. Se si dovesse riuscire a trovare questo ragazzo, che fra l'altro è un ragazzo coetaneo dei nostri allievi, quello che noi nel nostro piccolo possiamo fare è quello, se si trova un posto dove questo ragazzo può alloggiare, dove poter vivere una vita, quello che possiamo fare noi come scuola è poterlo e iscriverlo qui presso il nostro istituto. Cioè, questa è la quota parte che potremo fare noi come aiuto alla persona. E anche come lezione di vita e di senso civico per i vostri studenti. Assolutamente, aggiungerei. Perché certo mettere a contatto questo ragazzo con i nostri allievi forse è la cosa che più pagherebbe la crescita umana degli stessi ragazzi. Altro che lezione di educazione civica, un gesto di questo genere varrebbe 100 ore di educazione civica. Ma un po' tutta questa vicenda è diventata un motivo di riflessione profonda per i ragazzi, che sono rimasti anche un po' turbati dal tutto. Sentiamo Cristina, una ragazza di quinta. Sì, perché più che altro le cose ero abituata a vederla dalla televisione. Poi una volta che sono arrivata lì e ho visto di persona cosa era successo, sono rimasta un po' scioccata, tra virgolette, perché comunque ho conosciuto una realtà diversa da quello che vedevo tutti i giorni. Cioè, poi più che altro ho capito quanto la disperazione possa arrivare a rischiare la vita a una persona, più che altro. Perché lì loro non hanno niente da perdere se comunque si mettono sotto ai pullman sperando di poter uscire dalla loro vita, da quella vita lì. E quindi un po' ci rimani. Certo, tu ogni giorno vai a scuola, poi vai in gita scolastica. Tu pensa che vita che fanno invece questi ragazzi, che come dici esatto. Tu non hanno niente da perdere. Esatto. E desidererebbero moltissimo avere una vita come la tua. Questo voi l'avete capito? Insomma, vi siete fermati un po' anche fra amici a parlare di questa cosa e a riflettere? Beh sì, ma non solo con gli amici, ma anche con i parenti, perché una volta che siamo arrivati comunque dalla gita ci sono state parecchie occasioni dove ne abbiamo parlato, sia con magari tra la classe, oppure quando lo raccontavamo alle nostre compagne che non c'erano, e anche magari ai nostri genitori, quando dovevamo raccontare com'era andata, allora lì non si poteva non dire anche quello. Senti, invece a Patrasso, quando siete stati in qualche modo circondati da persone che cercavano di salire per poter passare il confine, deve essere stata una brutta scena. Sì, per me bruttissima, perché io ero sul pullman e vedi proprio i clandestini che saltano le recinzioni addirittura con il filo spinato per scavalcare e arrivare lì poi dove ci sono i pullman per attaccarsi in qualsiasi modo. E poi quando ti vedi tutti questi clandestini che scappano magari dalle autorità, capisci proprio com'è brutto vivere così. Ti sei anche spaventata? Sì, abbastanza, perché non mi sentivo sicura. Cioè, vedermi lì sul pullman con quelle persone che cercavano di salire o di attaccarsi in qualche modo, cioè magari loro sono le persone più buone del mondo, però comunque vedere quelle scene ti spaventa. Ti è venuta anche un po' la curiosità di studiare più la situazione magari anche politica di altri paesi? Insomma, l'Afghanistan magari per voi prima era un qualcosa che uno vede in televisione. Sì. Ti è venuta un po' più la curiosità di capirne qualcosa in più? Beh sì, perché io magari avevo un'idea di quella vita solo in alcuni paesi o dell'Africa o più poveri dell'Italia. Invece andando in Grecia e vedendo queste scene capisci che magari non c'è solo in Afghanistan o in Palestina quelle condizioni di vita. Ma quindi anche molto lontane da noi, in realtà sì, sono esatto. Vicinissime, sono sì, qua esatto. Dietro insomma. Sì. Le cose a vederle da vicino sono un po' diverse, come ci racconta anche un'altra ragazza di Quinta, Irene. Io praticamente vedendo questa gente che cercava di in qualche modo di arrivare in Italia o un altro paese per poter scappare di quella vita proprio brutta, ci ho pensato su, nel senso che ho pensato su e riflettuto sulla mia vita, nel senso che sono stata fortunata di avere una vita tranquilla, normale, e invece loro rischiano la loro vita ogni momento per poter raggiungere un posto tranquillo e avere un pasto caldo per poter mangiare. Certo, il preside diceva mi piacerebbe ritrovarlo questo ragazzo e poterlo ospitare qui a scuola fra i banchi delle nostre aule. Ti piacerebbe conoscerlo? Certo, mi piacerebbe conoscerlo e cioè, in qualche modo parlare con lui e capire cosa gli ha spinto a fare questa cosa. Conoscere meglio la sua storia? Sì. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Bologna, dove è nato il primo museo dello studente. L'ha visitato per noi Chiara Grandis. Per celebrare i tempi dell'università nasce a Bologna il Museo Europeo degli Studenti e dove se non nella storica via Zamboni, sede dal 1088 del primo Ateneo Occidentale. 5 sale che nascono da una necessità per il direttore Giampaolo Brizzi. Chiedere agli studenti di vivere in modo più responsabile e partecipato. Gli anni di università richiede, io credo, un intervento diverso da quello che si è fatto fino ad oggi. Libri, oggetti d'epoca, filmati e musiche per ricostruire la vita dello studente dal Medioevo a oggi. Come spiega lo staff, in principio furono le associazioni con i loro riti. Si pensava che il giovane in genere fosse una sorta di animale e dovevano venire eliminati tutti questi caratteri bestiali. Veniva utilizzata l'ascia per tagliargli le corna, la pialla, le tenaglie per tagliargli i zoccoli. Bisognerà aspettare fino alla metà dell'Ottocento per vedere le donne a lezione. In alcuni casi aspettare anche un secolo. Saragozza, la prima donna laureata del 1960. Sei, ieri l'altro praticamente. Ma già con la Rivoluzione francese, università e studenti avevano cominciato a trasformarsi. Ci annuncia già il 68 i ruoli che gli studenti via via hanno assunto anche come la loro originale partecipazione alla vita politica dei loro paesi. Nell'ultima sala anche una raccolta di giornali universitari. Architrave è un giornale dell'ultima fase del fascismo, ma che divenne in realtà una palestra per alcuni studenti eccellenti, da Enzo Biagi a Pierpaolo Pasolini. E i professori non si offendano se per un museo tutto loro bisognerà attendere ancora un po'. Siamo talmente narcisisti che sarebbe il caso anzi di sfrondare qualcosa. Ed è tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.